Buongiorno Chiesa. Uno, dai, seguiamolo. Grazie Mario. Come stiamo? Bene? Devo dire che stamattina ci siamo svegliati super carichi. Non ho mai vissuto un incontro di domenica mattina così bello. Grazie al gruppo Lode, grazie alla regia, grazie al conduttore, al nostro pastore è stato, e grazie Chiesa perché eravamo nei cieli. Quindi facciamoci un applauso perché abbiamo deciso di svegliarci e di farci caricare dalla presenza di Dio. Qual è il posto più bello per la domenica mattina per te? Non su un lungomare, dopo. Non davanti alla lasagna, dopo. Ma è bellissimo poter stare insieme, sì? Contemporaneamente a noi sta insieme una chiesa a 50 chilometri da noi e noi la salutiamo sempre, però ho detto a Giovanni, Giovanni, facciamo sentire la chiesa di Modugno che esiste veramente questa chiesa di Mottola, che sembra una chiesa fantasma, quindi ora proveremo a fare questo collegamento per sentire che la chiesa di Mottola esiste ed esiste veramente. Vediamo. Sto chiamando. Giovanni, rispondi. Utente occupato. Giovanni, rispondi. Non mi fa... Perché lui ora mi vede anche. No, Giovanni, rispondi a quel cellulare. Forse non prende. Ci proviamo. Utente occupato. Giovanni, con chi stai parlando a quest'ora? Solo con... Ah, chiama Teresa. Oh, tutto fantastico così. Ok, forse a lui non prende, quindi chiamiamo un'altra persona. Sai tipo il telefono a casa, sai quando tu chiamavi e non c'era quella persona e quindi... Boh, vediamo Teresa che avrà il cellulare scarico, vediamo. Teresa, rispondi. Dai che mi sto rubando i minuti della predica per chiamarti. Noi pronti a salutare, Chiesa? Teresa. Ciao Mottola! Pronto? Ciao Mottola! Pronto? Pronto? Ciao Chiesa di Mottola! Pronto? Ora vi facciamo sentire che noi ci siamo e vi salutiamo. Chiesa di Modugno, salutiamo! Un'altra volta Mottola, poi basta con questa pagliacciata. Ciao Mottola! Cosa sono io? Un'altra volta. Questi sono loro, questi sono loro. Che belli, vi amiamo tanto. Ora basta con questa pagliacciata. Vi amiamo tanto, ve lo dico da qui perché arriva prima. Vi amiamo tanto ed è bello avere diverse stanze. Abbiamo scelto quest'anno di investire in questo credendo che questa casa diventi una casa per tutti. E non so quanti di noi siamo andati a Mottola, ma il locale di Mottola è veramente una casa, ed è una casa per tutti. Quindi vogliamo continuare ad investire in questo, a pregare per questa chiesa, a credere che Taranto sarà salvata completamente. Amen? Sì, chiesa? Sto facendo un caos qua oggi. Ci siete? Io ci sono, provo ad esserci. Vogliamo alzarci in piedi e pregare un attimo, sì? Sento proprio che la presenza di Dio oggi vuole fare qualcosa che non ha mai fatto nel nostro cuore, forse ricucire quelle relazioni che sono in stand-by. Ecco, sentivo proprio questo, che ci sono relazioni in stand-by che hanno bisogno di essere ricucite, forse il tuo matrimonio in particolar modo, forse le relazioni con i tuoi vicini di casa o i tuoi vicini di banco, ma ci sono delle relazioni in stand-by che Dio vuole rianimare questa mattina. Vogliamo pregare per questo? Siamo pronti a pregare per questo, sì? Gesù, ti preghiamo che la tua presenza qui inondi ogni persona. Ogni relazione che è qui rappresentata, ogni legame che tu vuoi ripristinare per la tua gloria, per farci essere una chiesa che va avanti di gloria in gloria per il tuo regno e per la gloria del tuo nome. Amen. Amen. Siamo pronti? Sì? Abbiamo vissuto dei messaggi incredibili in queste settimane, il pastore ci ha portato attraverso un bellissimo percorso, perdono perché amo, voglio giusto ricordarci al volo, per chi non lo ha seguito, il messaggio della settimana scorsa lo può trovare su YouTube, ma la settimana scorsa il pastore ha parlato di un appuntamento con un giovane ricco e quell'appuntamento non è proprio andato a finire bene, è stato uno di quei appuntamenti un po' che ti creano disagio e il disagio Gesù lo ha creato ad una persona che non aveva veramente scelto di servire Dio, che non aveva scelto di rinunciare a tutto per la sua gloria. E lo abbiamo visto già la settimana scorsa, che in quell'appuntamento Gesù non ha fatto altro che rompere una religiosità. Andava man mano a scavare nel cuore di questo ragazzo per arrivare al punto, e nel punto ha trovato religiosità, non ha trovato dedicazione. Questa mattina voglio parlarci di un altro appuntamento particolare che Gesù ha avuto con una persona, e nella stessa maniera ha provato a scavare nel cuore di quest'uomo e ci ha trovato in parte religiosità. Ma in altra parte ha lasciato un esempio a tutti quanti noi per quello che vuol dire drasticamente, veramente amare. Questa è una storia che conosciamo tutti quanti ed è la storia del buon samaritano. Sì, chi non la conosce? Vabbè, non la vuoi fare la figura quando... Ok, la storia del buon samaritano ci hanno predicato tutti, dai cattolici ai musulmani, tutti predicano sulla storia del buon samaritano. Quindi che cosa prego oggi? Prego che Dio possa aggiungere qualcosa che non abbiamo ancora visto da questa storia. Vogliamo leggerla insieme? È in Luca 10 e dice: ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Che belli questi appuntamenti, eh? Un dottore della legge, uno veramente secchione, cerca di mettere in difficoltà il Signore dei Signori. È ridicolo già solo leggendolo. E dice: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Fattizio, eh? Una domanda di spessore, una di quelle, le domande storiche, le domande vitali nell'esistenza. E Gesù gli disse: nella legge che cosa è scritto? Come leggi? Ed egli rispose: bravo, bravissimo, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la forza tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: promosso, la teoria la sai. Gesù gli disse: bravo, fa esattamente questo e vivrai. Ma egli, volendosi giustificare, interessante, perché quando Gesù ci fa vedere qualcosa di massiccio, andiamo in protezione. E la nostra protezione è sempre cercare di minimizzare, di limitare quelle cose incredibili che Dio invece ci chiede. E così lui, volendosi giustificare, disse: va bene, ma chi è il mio prossimo? E figuriamoci se beccavano Gesù impreparato. E Gesù disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui, ascoltiamo bene ora, e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi 2 denari, li diede all'oste e disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E chiaramente quelli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Come il giovane ricco, il dottore della legge sapeva tutto, ma lo sapeva nella testa. Anche il giovane ricco aveva risposto esattamente che aveva fatto tutto. Questo era uno che studiava, il dottore della legge studiava le scritture, era il suo lavoro, era il suo ministero, sapeva bene, ha citato il grande comandamento, ha citato: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi sapeva perfettamente la teoria, ma Gesù a un certo punto lo ha incontrato per dirgli questo: la teoria non basta. Puoi sapere tutta la Bibbia a memoria, ma se la Bibbia non la fai, allora non compi la volontà del Padre. Quando viviamo questa distanza tra quello che sappiamo, ma c'è difficile compierlo, bene, questa è la risposta che Gesù ci dà. Fa quello che hai letto, fa quello che è scritto. Non lo sai come? Ce lo spiega Gesù. E Gesù usa proprio questa storia per evidenziare ancora una volta, sappiamo quanto Gesù sulla terra ha rotto con la religiosità. C'era un modo di fare Cristo, un modo di fare Dio, un modo di fare Chiesa, ma era solamente leggi. Gesù è venuto e si è incarnato per diventare quella legge, compierla e mostrare un esempio per tutti quanti. Gesù in tutta la sua vita si è battuto per interrompere quella religiosità. E se prendeva di mira qualcuno, era unicamente chi pensava di fare bene, ma faceva malissimo. E infatti Gesù lo spiega anche nella storia. La storia comincia con: c'era un uomo che andava da Gerusalemme a Gerico, si imbatté nei ladroni, fu depredato, lo lasciarono quasi morto e incontrò prima un sacerdote, giusto? Dopo un levita. Ed entrambe queste persone ebbero la stessa reazione, cioè lo videro, perché non è che non lo videro, è scritta la parola, ma andarono dal lato opposto. Gesù sottolinea ancora una volta che non ha a che fare con una posizione. Amare le persone non ha a che fare con una posizione. Aiutare il prossimo non ha a che fare con una posizione. Perché Gesù sottolinea proprio che un sacerdote deputato a portare la legge di Dio e a presentarla sulla terra è un levita deputato a portare l'adorazione nel tempio sulla terra, entrambi loro non hanno capito niente. Possiamo pensare che forse fossero fuori dalla loro zona di comfort. Il sacerdote e il levita avevano a che fare con la chiesa, con la sinagoga, con il popolo di Israele sempre. Era una nicchia, era l'elite, erano i detentori della teoria più pura e perfetta. Eppure non hanno capito bene il messaggio di Dio. Che cosa ci sta insegnando qui Gesù? Che quando abbiamo a che fare con Dio, abbiamo a che fare con le persone. Che ogni volta che confessiamo di amare Dio, di amarlo con tutto il nostro cuore, di amarlo con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, dobbiamo ricordarci di quello che è scritto in Matteo 22, quando Gesù collega questo comandamento ad una frase ponte che dice: è il secondo dopo di questi, è, diciamolo insieme, ama il tuo prossimo come te stesso. Il verso continua, ed è una frase che sottovalutiamo sempre, con: da questo provengono la legge e i profeti. E questo è quello che Gesù ha detto: se vuoi riassumere tutto quello che devi fare per lui, come amare Cristo, bene, ama Gesù e ama le persone. E questa è la Chiesa, questa è la Chiesa. La Chiesa è amare Cristo e amare le persone. Ti piace questo? Puoi dirlo alla persona vicino a te, scuotile, e digli: amare Dio è amare le persone. Amare Dio è amare le persone. Questa settimana il pastore ha detto una frase, ve la voglio citare perché mi ha profondamente colpito. Questa settimana nell'incontro pastorale il pastore ci ha detto questo: l'amore è al centro della Chiesa. Ed è vero, l'amore è al centro della Chiesa. L'amore per Dio è l'amore per le persone. Ti piace? L'amore deve essere al centro della Chiesa. L'amore non ha a che fare con la posizione, l'amore non ha a che fare con il ruolo che ricopri, l'amore è quanto hai capito di amare Dio e quanto hai capito che amare Dio è amare le persone. Punto. Posso finire qui. Ti piace? Come facciamo ad amare le persone? Quando abbiamo ricevuto quell'amore incredibile da Dio, allora siamo abilitati ad amare gli altri. Sara, ma io non ho le stesse capacità di mia madre o di mio padre o di mio marito o del pastore o di quel capogruppo per amare gli altri. Io sono infastidito dagli altri, nessuno vuole stare con me, io non voglio stare con gli altri, io non so amare. Quando hai ricevuto l'amore di Dio nella tua vita, l'amore di quel Gesù, ascoltami bene, che ti ha visto, che ti ha incontrato, che si è avvicinato, che ha fasciato le tue ferite, che le ha medicate con l'olio e il vino, che ti ha messo sulla sua cavalcatura, che ti ha messo in un posto sicuro e ha provveduto per te a tutto il resto, se hai incontrato questo amore, sei abilitatissimo ad amare gli altri nella stessa misura in cui abbiamo ricevuto amore. Ti piace? Quindi se ti stai chiedendo ma qual è il mio linguaggio dell'amore, ma perché le persone non stanno con me, ma perché, ma io non sono bravo ad amare, ma gli altri non mi sopportano, ti dico questo: smettila di darti scuse, perché la tua promozione viene dal fatto che l'amore di Cristo Gesù è nella tua vita. Questo ti rende promosso, abilitato, pronto, talentuoso ad amare gli altri. Come? Ora lo vediamo. Ma voglio dirti questo: quando capisci chi hai ricevuto, quando capiamo cosa abbiamo ricevuto, quando siamo grati perché Gesù ci ha incontrato, perché siamo grati del fatto che Cristo non ha incontrato me quando ero sana, Cristo mi ha incontrato mentre ero moribonda, Cristo ha incontrato tutti noi mentre eravamo moribondi. E se non avessimo incontrato Gesù, forse saremmo stati morti. Quel Gesù ci ha incontrati. Questo amore incredibile. Lui è l'esempio del buon samaritano. Lui ha dato tutto per noi. Lui ha dato se stesso per te e per me. E ha scelto il giusto aiuto. Ha scelto il giusto aiuto. Lui ha curato le tue ferite. Lui ha dato un futuro per la tua vita. Lui ha provveduto ad un posto per te. Indovina come? Con la Chiesa, con i gruppi, con le relazioni. Che bello che ci ha tolti dalle nostre postazioni non sicure. Quando riceviamo questo, noi siamo abilitati a dare. Quindi non vederti secco, non vederti sterile, non vederti incapace, perché non lo sei. Amen? Tu sei ricco, tu sei abilitato, tu hai delle cose da dare agli altri solo perché hai ricevuto l'amore di Cristo. Che bello questo. Non so se ti svegli la mattina e dici: Gesù, grazie che mi hai incontrato. Ma ti chiedo questo, per favore, svegliati ogni mattina e di: Gesù, grazie che mi hai incontrato, perché se tu non mi avessi incontrato io non starei qui. Perché se tu non mi avessi incontrato io sarei un enorme insieme di ferite. Grazie Gesù che mi hai incontrato. Non sottovalutiamo questa Chiesa. Questo è qualcosa che nessun altro poteva fare per noi. Gesù ha scelto di farlo per noi. Amen? Ti piace? Gesù racconta di come un samaritano, uno della categoria B, diciamo, dopo il sacerdote e il levita, categoria A+++ come il risparmio energetico, ha detto che il samaritano, una categoria sfigatella, quelli che non potevano essere santi, quelli che non capivano bene esattamente le scritture, Gesù usa proprio questo. Perché? Per rompere ogni aspettativa. Non dobbiamo aspettarci dagli altri, da quelli abilitati più bravi di noi, che vengano da noi. Non dobbiamo aspettarci che quelli super santos vengano da noi, ma noi, che bello, come aiuta questo buon samaritano, che poi è un samaritano, è diventato buono, perché lo chiamiamo buono, te lo voglio dire, tutti e tre videro quest'uomo, ma solo uno lo vide, si avvicinò e ne ebbe pietà. Quindi come un samaritano aiuta? Com'è l'aiuto che Dio vuole che noi diamo al prossimo? Vederlo. Possiamo vedere, ognuno di noi è capace di vedere il bisogno che c'è intorno a noi, vero? E forse a volte siamo anche estenuati dal bisogno che vediamo intorno a noi. Ma un conto è vederlo. Un conto è vedere che c'è una persona ferita accanto a me, un altro conto è avvicinarmi e vedere esattamente quello che è successo. Un conto è sapere che le famiglie nel mondo si stanno distruggendo, un altro conto è vedere che puoi fare qualcosa, e penso al matrimoniale. Un conto è vedere che le mamme sono in difficoltà, un altro conto è dire: ehi, stiamo insieme per fare qualcosa. Questa settimana comincia un appuntamento bellissimo per le neomamme, giusto Simo? Wonder Mom si chiama. Che bello questo. Un conto è vedere. E il samaritano è stato l'unico a vederlo, ad avvicinarsi e a capire che problema avesse veramente. Quindi avviciniamoci alle persone, avviciniamoci a chi è intorno a noi. Come? Tu lo sai come puoi avvicinarti. Certo è che abbiamo bisogno di avvicinarci, abbiamo bisogno di essere vicini l'uno all'altro. Abbiamo bisogno di smetterla con questa distanza che la cultura di questo mondo ci impone. La cultura di questo mondo sta andando verso il protezionismo. Stai distante dagli altri perché potrebbero ferirti. E questo induce isolamento, questo induce depressione, questo induce ansia, paura. Ma la cultura che viene dalla parola di Dio è: avvicinati agli altri. Tocca quella ferita. Tocca quel bisogno. Il samaritano si è avvicinato e ne ebbe pietà. Ha fasciato le sue ferite. Perché le ha fasciate? Per evitare che si infettassero. Ci ha messo vino e olio. Vino perché? C'è alcol nel vino e disinfetta, giusto dottore? E l'olio perché? L'olio lenisce il dolore. L'olio ammorbidisce la ferita. Poi che altro ha fatto? Lo ha preso sulla sua cavalcatura. Lo ha tolto da quel posto in cui poteva essere di nuovo incontrato da briganti. Ci abbiamo mai pensato? Non le ha fasciato le ferite e lo ha lasciato lì. Da Gerusalemme a Gerico è un percorso impervio, molto particolare, con molte caverne, una zona molto rocciosa. Poteva essere di nuovo incrociato da briganti, eppure il samaritano ha scelto di prenderlo con sé, di portarlo di peso sulla sua cavalcatura e portarlo in un posto sicuro, dove poteva curarlo veramente, e lo ha curato, ha speso del tempo, ha fatto esattamente quello che il corpo, quello che l'anima e quella persona necessitava. E poi doveva andare via. E quindi ha lasciato dei soldi e ha provveduto perché tutto quello che ancora era necessario per quell'uomo fosse provveduto, che la sua mancanza non avesse generato un problema in quell'uomo. Che amore incredibile! Che amore incredibile! Avviciniamoci alle persone. Avviciniamoci alle persone. Guardiamo bene il bisogno, andiamo verso le persone, portiamole con noi, provvediamo allora ad un posto sicuro, diamo per le persone. Lo sai cosa ha fatto questo samaritano? Ha pensato: oh, c'è una persona che ha bisogno, cosa posso fare? E ha detto: ho dell'olio e del vino e lo uso, ho un cavallo, un asino, non sappiamo, e allora me lo porto. Devo andare in una locanda e lo porto con me. Ho dei soldi, posso provvedere. E questo samaritano aveva tutte le cose necessarie per soddisfare quel bisogno. Non le ha comprate, non le ha trovate, le aveva già. Ma sai perché le aveva? Perché le ha viste in se stesso. Quando diventiamo ciechi agli altri, diventiamo ciechi verso noi stessi. Quando vediamo che i bisogni degli altri sono troppo alti, troppo profondi, quello che stiamo dicendo in una maniera diversa è: io non ce la posso fare, io non ho niente da dare, io non ho gli strumenti per arrivare a raggiungere quel bisogno. Quando cominciamo a guardare gli altri, indovina un po', cominciamo a vedere meglio anche noi stessi. E allora cominciamo a vedere che abbiamo dell'olio e del vino, cominciamo a vedere che abbiamo un cavallo, cominciamo a vedere che abbiamo delle finanze, cominciamo a vedere che abbiamo del tempo. E sai qual è quegli occhiali che abbiamo bisogno di indossare per guardarci diversamente? La compassione. C'è scritto proprio: ne ebbe pietà. E quando cominciamo a provare quella stessa pietà di Cristo Gesù nel guardare a noi, allora guardiamo con un amore diverso gli altri. Ma ti assicuro che cominci a guardare diversamente anche te stesso. Mi ricordo la testimonianza, voglio dirvi questo, mi ricordo la testimonianza di Marta. Marta fu sfidata da un incontro di Seotto: se non sai che cosa è, perché ci segui a casa, per piacere scrivici o vai sul sito di Seotto. Quando Marta fu sfidata, Marta la conosciamo bene, una delle nostre, perché c'era un bisogno incredibile nel popolo musulmano, disse: che cosa ho? Cosa ho nelle mani? Io ho un lavoro, io ho una macchina, io ho del tempo. E mi ricordo benissimo, questo me lo disse Gianluca, che dalla sera alla mattina decise che doveva andare a colmare questo bisogno. Ti ricordi Gianluca che disse? Ok, io oggi devo vendere la macchina, perché? Perché devo andare. E Gianluca disse, oh aspetta, manca un po' di tempo, ti serve per prepararti un po' di tempo. Questo è esattamente quello che succede quando la pietà entra in noi, quando la compassione entra in noi, quando la gioia di vedere gli altri che vivono un destino diverso e che abbiano delle altre possibilità entra in noi, tu cominci a vederti ricco. Comincia a vederti abilitato, comincia a vederti che hai delle cose che possono servire agli altri. Più guardi gli altri nel bisogno e più riusciamo a vedere noi ricchi. Allora quando ti guardi, guardati abilitato, ma anche guardati ricco. Che cosa hai nelle mani? Cosa ci ha dato Dio? Cosa ti ha dato Dio? Ti ha dato amore, ti ha dato preghiera, ti ha dato soldi, ti ha dato talento, ti ha dato... Fatti muovere dall'amore e rispondi a quel bisogno che vedi, perché Dio ti ha abilitato dandoti ogni cosa. Non guardarti più come limitato. Ho tanto tempo pensato, cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa posso fare? E più guardavo gli altri, più il Signore mi diceva, io te l'ho dato, io te l'ho dato, io te l'ho dato, io te l'ho dato. Ma Gesù, ma gli altri hanno bisogno di speranza, indovina un po', figlia mia, ti ho dato la parola. Ma Gesù, ma gli altri hanno bisogno di un posto sicuro. Indovina un po', te l'ho dato, e la Chiesa, falla vedere fuori. Ma Gesù, ma gli altri sono scoraggiati, sono depressi. Indovina un po', usa la parola che ti ho dato, usa la parola di Dio, predicala agli altri, dalla. Ma Gesù, ma come facciamo per quella cosa? E ogni volta, quando il cuore di Dio si ingrandisce in noi, Dio ci ricorda anche che cosa Lui ci ha dato per provvedere. Questo è il regno di Dio. Questo è il regno di Dio. Immaginateci al contrario. Guardare al bisogno e non avere la forza e gli strumenti per soddisfarli. Diventeremmo frustrati. Diventeremmo, amen, è vero. Diventeremmo depressi. Il bisogno ci schiaccerebbe. Ma attenzione, la storia del Samaritano ci invita a guardare al bisogno, ma anche a guardare a quello che abbiamo per soddisfare quel bisogno. Ti piace? Puoi dire alla persona vicino a te, metti un braccio e digli, oh, c'è un sacco di roba. Diglielo così, c'hai un sacco di roba, c'hai un sacco di roba. C'hai un sacco di roba. Questo rompe la cultura. Questo rompe la cultura di questo mondo. Ti piace questo? Io so che non sto predicando solamente ad una chiesa che sta facendo veramente la differenza in questo mondo, ma io sto predicando a tutta quella contro quella cultura che ci dice tu non hai niente, è bene che gli altri siano soli, non c'è nessuno che possa aiutare gli altri, tu non vali niente per farlo. No, io mi oppongo a questa cultura che stimola a separarci, che stimola a chiuderci nelle nostre case a pensare sono solo, sono solo, sono solo, sono solo, sono solo. È vero, quando leggiamo questa storia quello che ci viene da dire è Gesù ti prego manda più samaritani, e questo è il genere di richieste a cui Dio non risponde mai. Sai perché? Indovina? Il mondo sarebbe migliore con più samaritani. È vero? È vero? Il mondo sarebbe molto migliore se fossimo molto più samaritani. E sai qual è la cosa interessante? È che quell'uomo che è stato depredato dai briganti stava facendo lo stesso viaggio che stavano facendo il sacerdote, il levita e il samaritano. Quindi la storia, riscrivendola, sarebbe così. Quattro uomini si incamminarono per la stessa strada, uno di questi era un sacerdote, uno di questi era un levita, uno di questi ha avuto bisogno di essere soccorso e uno lo ha soccorso. Questa è la storia riscritta del buon samaritano. E questo per dirci come. Erano tutti e quattro nello stesso percorso. Ti è mai capitato che affrontiamo dei percorsi scoscesi? Che mentre stai facendo la tua strada, che mentre stai andando di gloria in gloria, che mentre stai andando di conquista in conquista, che mentre stai facendo il tuo percorso con Dio, ti è mai capitato di essere depredato? Hai mai capitato? Ti è mai capitato che qualcuno rubasse il tuo fortino? Ti è mai capitato di essere distrutto, ammaccato, indebolito e lasciato morto? Questa è la storia di tutti quanti noi. Ognuno di noi può intraprendere un viaggio così. E anzi, ti dirò di più, tutti quanti noi incontriamo briganti. Tutti noi veniamo ammazzati e distrutti. Un giorno è la mia storia, un giorno è la tua storia, un giorno è la storia di un altro. Tutti quanti noi viviamo dei processi, tutti quanti noi viviamo dei momenti, tutti quanti noi viviamo delle sfide, tutti quanti noi viviamo delle cose in cui perdiamo e delle cose in cui vinciamo, ma mentre facciamo il nostro percorso con Dio è possibile che arrivino dei briganti. È quello che hai bisogno quando incontri dei briganti è di trovare dei samaritani, giusto? E allora che cosa possiamo garantirci? È importante che ci garantiamo che ogni volta che cadiamo, che ogni volta che siamo distrutti, che venga qualcuno ad incoraggiarci, a soccorrerci, a curare le ferite, a portarci in un posto sicuro. Ehi, ma sai anche cosa dobbiamo garantirci? Che noi diventiamo quei samaritani per gli altri. Garantendo agli altri che in qualsiasi fase di vita siano, possono trovare qualcuno che li incoraggi, che li aiuti. E a volte possiamo essere noi samaritani, altre volte possiamo essere noi quelli presi dai briganti. Ti piace questo? No. Volevamo essere tutti samaritani. Voglio concludere con un ultimo passaggio che mi è saltato agli occhi. Il samaritano finisce il suo viaggio, cioè, scusate, continua il suo viaggio. Il samaritano aiuta la persona, la porta nella locanda, provvede per i soldi e continua questo dicendo: te lo rimborserò al mio ritorno. Che cosa vuol dire? Che lui ha continuato il suo programma, lui ha continuato il suo percorso, lui ha continuato il suo viaggio. E questo ha un insegnamento per noi. Deve avere un insegnamento per noi, perché Gesù non lascia niente scritto a caso. Siamo noi che dobbiamo interpretarlo bene, siamo noi che dobbiamo capirlo. E questo mi ha acceso una lampadina. Perché? Perché io mi sono sentita tante volte depredata, ma mi sono sentita anche la buona samaritana. E in tante volte ho pensato, ho perso tempo. Sai quando? Quando davo tutte le mie energie, quando davo tutte le mie risorse a qualcuno che stava meglio e poi, sparito. E questa cosa ha scoraggiato il mio percorso, lo ha rallentato e molto spesso proprio bloccato quel percorso. Ma questa storia ci invita ad essere equilibrati. Che cosa vuol dire? Prima di tutto, a guardare gli altri, a guardare a chi viene depredato intorno a noi, però anche a continuare il viaggio. Ed ecco qui che voglio darci un principio importante. Questo è un principio di leadership straordinario. Questo è un principio di influenza straordinario. Continua il tuo percorso, portandoti dietro il maggior numero di persone che puoi. Continua a camminare, continua a procedere di gloria in gloria, ma non lo fare da solo. Cerca di portarti insieme il maggior numero di persone. Cerca di aiutare il maggior numero di persone, di provvedere al maggior numero di persone, di fare in modo che queste persone riscoprano il loro destino con Dio, ma poi continua a camminare. Sai perché? Perché troverai altri a cui dovrai darti, perché troverai altri a cui dovrai incoraggiare perché riscoprano il destino che Dio ha per loro, perché troverai altri nel tuo percorso che hanno bisogno della tua cura. Quello che Dio ci ha chiamato a vivere quest'anno è ad andare di gloria in gloria. È un processo, è un processo. Noi abbiamo bisogno di procedere e di portarci il maggior numero di persone insieme. Quando aiutiamo solamente, finiamo per essere esausti. Sto parlando dal cuore di una persona che ha aiutato, perché non ho capito bene l'equilibrio. Pensavo di sostituirmi a Dio molte volte. Ma quello che Dio mi chiedeva è: avvicinati, fascia, provvedi e vai avanti. Avvicinati, fascia, provvedi e vai avanti. Questo mi chiedeva Dio. Non avvicinati, fascia, provvedi, provvedi, fascia, provvedi, stai insieme, non te ne andare, dai latte, dai il latte, e poi di nuovo fascia, e poi di nuovo provvedi. Sapete questo che cosa alimenta? Alimenta la nostra sindrome del superio, cioè le persone non possono vivere senza di noi. Noi abbiamo bisogno della stima degli altri per avere la nostra autostima, e rendiamo dipendenti gli altri da noi. Ma noi non siamo chiamati a questo. Noi siamo chiamati a rendere dipendenti le persone da Cristo, non da noi. Se noi rimaniamo, non stimoliamo maturità, ci sostituiamo a Cristo. E attenti un attimo, attenti ad individuare la differenza tra amare gli altri e sentirci superstimati dagli altri. Questo non è l'amore vero, questo non è l'amore puro. Per questo Dio ci invita ad essere come un buon samaritano, a provvedere e ad andare avanti. Perché? Maxwell dice: se vai da solo vai più veloce, se vai con gli altri vai più lento ma più lontano. E come chiesa noi siamo chiamati a portarci il maggior numero di persone dietro. Allora questo vale per me, questo vale per il mio matrimonio, questo vale per il mio matrimonio. Pensaci, come posso andare a predicare, non lo so, a scuola, e non ho provveduto a quello che mio marito ha bisogno, a quello che mia moglie ha bisogno? Come posso essere pienamente fautrice della volontà di Dio se i miei figli non hanno quello che realmente necessitano? Nella nostra casa noi abbiamo bisogno di vivere il grande comandamento all'ennesima potenza, tra i nostri vicini di casa, con i nostri amici a scuola, con chi incontriamo per strada, con il nostro parrucchiere, con il nostro panificio. Andiamo a guardare, provvediamo a loro, portiamoceli dietro e continuiamo la nostra gara. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Chi vuole essere veramente un samaritano migliore oggi? Amen. Amen. Amen. Io voglio essere un samaritano equilibrato. So perché sento molto questa parola. Voglio specificarlo in particolar modo per tutti coloro che hanno una responsabilità con i gruppi. Aiuta e portati quante più persone possibili dietro, ma non rimanere bloccato, non sostituirti a Cristo. Le persone non sono nostre, le persone sono di Gesù. Noi amiamo, diamo, provvediamo e poi continuiamo. Amen. E in questo vogliamo prendere l'esempio di Gesù. Oggi abbiamo la cena del Signore, per la prima volta anche a Mottola oggi. Abbiamo la possibilità di riguardare all'esempio che Gesù ci ha dato per essere come Lui. E voglio leggervi un verso prima di avviarci per la cena. Filippesi 2:5-8 dice questo: abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questa mattina abbiamo la possibilità di ricordare quello che Gesù ha fatto per noi, che ha preso forma, che ha cambiato forma ed è morto ed è risorto, e nel suo sacrificio noi abbiamo l'esempio più incredibile di libertà, di guarigione. È nel suo sangue, è nel suo corpo che noi abbiamo guarigione, che noi abbiamo liberazione, che noi abbiamo perdono dei peccati. E questa mattina ci stimolo a vivere la cena del Signore provando a rianimare quelle relazioni che sono in stand-by. Presentalo davanti a Dio, mettile davanti a Lui. Come? Fai come Gesù, umiliandoci, andando, servendo, alzando gli altri per sottomettere noi stessi. Vogliamo pregare insieme. Gesù, grazie per il tuo esempio meraviglioso. Grazie Gesù che mentre eravamo per strada, feriti, tu ci hai accolto. Gesù, grazie perché tu hai cambiato il nostro status da moribondi a viventi in te. Gesù, grazie per il tuo sangue, grazie per il tuo corpo che benediciamo in questo momento, e grazie che ci dai la possibilità di ricordare anche oggi il tuo incredibile esempio. Trasformaci, trasformaci nel tuo stesso cuore, che la tua stessa compassione, il tuo amore che ti ha spinto a sacrificare ogni cosa possa essere sempre più in noi per aiutare gli altri, nel tuo nome, Gesù.